In questi tempi complicati abbiamo pensato di usare la nostra voce per parlare di cambiamenti che attraversano le città. La metropoli della rendita, del greenwashing, del tecnocapitalismo sembra un Moloch in grado di regolare le nostre vite fisiche e penetrare il nostro immaginario. A questo punto ci tocca ragionare partendo da una domanda, se possibile radicale. Che cosa significa affermare il diritto alla città oggi? La nostra indagine parte da Milano, il luogo in cui viviamo, e si espande al resto dell'universo, non perché Milano sia il centro dell'universo, ma perché ogni modello è replicabile in scala e ogni situazione particolare ne contiene una più grande, che ci coinvolge tutti. Questo podcast si chiama Fuori Fase. Le musiche sono di Le Gros Ballon e lo produce il collettivo politico Off Topic Lab. Parla di Covid e inquinamento e lo fa con Sandro Finardi, membro del comitato scientifico dell'International Conference on Air Quality Science and Application, cofondatore di Arianet, e la Critical Mass per la salute dei territori. Quello che sentite è una sonificazione dei dati delle rilevazioni di PM10 nel 2020 a Milano. Quando il suono è acuto o fastidioso, significa che i livelli di queste polveri inquinanti sono oltre il limite stabilito dalle normative europee e quindi critiche per i nostri polmoni. Nei primi mesi dell'anno 2020 si è registrato un costante sforamento dei limiti di inquinamento. Poi è arrivato il Covid e il successivo lockdown di marzo-aprile con lo stop forzato del trasporto su strada. E la musica, come potete sentire con le vostre stesse orecchie, è cambiata. Si è visto che i valori di NO2, quelli medi annuali, si sono ridotti generalmente e hanno raggiunto i valori più bassi, potremmo dire di sempre o comunque degli ultimi anni, in buona parte a causa della significativa riduzione registratasi durante i mesi del lockdown primaverile. Con NO2 si intendono i biossidi di azoto, che in una città come Milano vengono in gran parte prodotti dalla combustione causata dal traffico veicolare, ossia le automobili. I livelli di biossido di azoto nel 2020 sono scesi in media del 50%, con punte del 70% durante il primo lockdown. Quindi in qualche modo si può considerare che provvedimenti anche a carattere locale, che intervengano in modo pesante sulle emissioni del traffico, possono sostanzialmente portare ad un controllo efficace delle emissioni di ossidi di azoto. Quindi, per essere espliciti, se noi con un colpo di bacchetta magica trasformassimo tutto il parco auto circolante in auto elettriche, avremmo sostanzialmente risolto il problema dell'inquinamento da ossidi di azoto, o comunque l'avremmo ridotto, non risolto perché gli ossidi di azoto vengono prodotti da tutti gli altri processi di combustione. I biossidi di azoto, però, sono solo una parte del mix di inquinanti letali che respiriamo in città. Il quadro cambia quando si considera la concentrazione di altri agenti, come il particolato, polveri prodotte dal riscaldamento domestico, dal riscaldamento industriale o dalle biomasse, come i caminetti e le stufe a pellet, che durante lo scorso lockdown primaverile e anche in quest'ultimo lockdown invernale non sono scesi. Anzi, i valori complessivi di questi polveri nell'anno 2020 sono addirittura aumentati rispetto ai valori del 2019. Come mai non c'è stato su questo inquinante un impatto così significativo delle chiusure del lockdown? Questo si può comprendere in buona parte in base al peso che su questo inquinante ha il traffico, quindi le emissioni legate ai trasporti, che è significativamente inferiore a quello che ha sugli ossidi di azoto. Una parte della riduzione dovuta al traffico è stata compensata, ad esempio, dall'aumento delle emissioni dovute al riscaldamento domestico. Il responsabile è l'utilizzo della legna. Durante il lockdown è diminuito drasticamente il riscaldamento commerciale, diciamo, il riscaldamento degli uffici, mentre è lievemente aumentato quello delle abitazioni private, nel quale ambito viene utilizzata la legna, nelle sue varie forme, diciamo dal camino al pellets. Questo aumento ha un mix di cause, anche antropiche. Gli effetti dei cambiamenti climatici, con un autunno sempre più caldo e sempre meno piovoso, unito al ritorno al traffico a pieno regime, allo stop delle misure antismog, al fallimentare piano di mobilità alternativo, nell'ultima parte del 2020, hanno fatto segnare nuovamente livelli di inquinamento record a Milano, sia per quanto riguarda i biossidi di azoto, sia per il particolato. Inoltre, a differenza dei biossidi di azoto che si disperdono in fretta nell'atmosfera, le polveri sottili hanno una vita più lunga e possono anche venire trasportate dal vento per lunghe distanze. Un incendio in vasta scala nei Balcani o il vento che soffia dal deserto del Sahara possono peggiorare la qualità dell'aria di Milano. Quindi, oltre a dover considerare ovviamente interventi significativi su altri settori, come nel caso delle nostre latitudini, il controllo delle combustioni di biomassa, quindi il controllo ed eventualmente l'eliminazione dell'utilizzo di combustibili come la legna, si deve pensare a politiche che abbiano un campo di applicazione che non sia locale, ma che possa essere regionale o internazionale, perché componenti significative delle polveri, come abbiamo detto, possono essere di origine secondaria, ma possono essere trasportate anche su lunghe distanze. Quindi, in un certo senso, sulle polveri potremmo sintetizzare dicendo che non ci si salva da soli, nel senso che potremmo stare anche in uno stato molto virtuoso, ma poi subire l'inquinamento di stati vicini che magari hanno condizioni economiche e sociali molto diverse e che non, per vari motivi, non attuano politiche di controllo sufficienti. Un altro argomento molto dibattuto nella comunità scientifica è la capacità dell'inquinamento atmosferico di fare da carrier, ossia da portatore del virus del Covid-19, attraverso l'atmosfera, aumentandone così il potere virale. Su questo argomento sono state pubblicate molte cose, devo dire, soprattutto durante la prima parte dell'epidemia, a mio parere è stato pubblicato anche in modo generalmente affrettato. Detto questo, i lavori che hanno mostrato la presenza di virus nel particolato tendenzialmente hanno verificato che ci fossero resti dell'RNA del virus all'interno del particolato, ma non hanno potuto verificare che il virus potesse essere attivo e non hanno valutato la quantità di virus che era presente e quindi che questa quantità fosse sufficiente a portare l'infezione. Anche se il ruolo di carrier delle polveri inquinanti non sembra avere effetti significativi sulla diffusione del virus, è invece sempre più evidente e supportato da ricerche scientifiche che nei luoghi ad alta esposizione a lungo termine di inquinamento atmosferico, come la Lombardia, aumenti la possibilità di contagio e di conseguenza di morte. Uno studio pubblicato sul Cardiovascular Research Journal stima che circa il 15% dei decessi in tutto il mondo dovuti a Covid-19 abbia l'inquinamento come principale responsabile. Ricordiamo anche che l'emergenza inquinamento è una presenza costante in Italia, che fa circa 60.000 morti invisibili ogni anno, in particolare in pianura padana e in una città come Milano. Se respirassimo un'aria più sana, quindi, avremmo non solo un'aspettativa di vita più lunga, ma anche una maggiore capacità di risposta all'attacco del virus. Ma comune e regione su questo fronte hanno fatto pochissimo per migliorare la situazione. Subito dopo il primo lockdown, con l'inizio della fase 2, quindi aprile 2020, Mentre i benefici di ambientali venivano già meno, la macchina comunicativa della giunta milanese spingeva verso una rivisitazione del fallimentare modello Milano, proponendo una cosiddetta strategia di adattamento, che faceva forte leva su un'imminente svolta verde. Purtroppo la propaganda pochi mesi dopo si è scontrata con la realtà dei fatti. La campagna di strade aperte per l'introduzione di piste ciclabili leggere è risultata una delle più contenute a livello europeo, con soli 35 km in programma, che in realtà erano solo 22, dato che 13 si riferivano ai limiti di 30 km orari nei controviali delle grosse direttive, per esempio come Viale Zaro e Viale Certosa. Pensando che poi Milano ha una rete stradale di circa 4.000 km, è dunque evidente che l'impatto era pressoché nullo. Contemporaneamente, a livello di trasporto pubblico locale, a fronte di una diminuzione della capienza dovuta a Covid, non c'è stato un aumento mirato di corse in orari critici, provocando da un lato assembramenti specialmente su mezzi di superficie e dall'altro una spinta all'utilizzo dei mezzi privati, che purtroppo non erano le biciclette ma sono diventate le macchine, e servizi privati di mobilità, che però sono, come sappiamo, limitati con certe zone e con prezzi non accessibili a tutti e a tutte. Dunque, le vere vincitrici dal punto di vista di mobilità sono state le quattro ruote, grazie soprattutto alla sospensione di tutte le misure antismog, come ad esempio area B e area C, la sospensione dei pagamenti delle strisce blu e delle strisce gialle, e a livello statale ci sono stati gli incentivi per gli acquisti delle macchine. Addirittura però a livello comunale hanno deciso di aggiungere altri incentivi. Ci chiediamo quindi se era proprio necessario anche fare questo ulteriore investimento e quante invece di questi 8 milioni e mezzo sarebbero state più interessanti di fatto investirli per la mobilità dolce, dato che gli interventi che sono stati fatti finora, il comune di Milano si è vantato che costavano poche migliaia di euro. Per cercare di uscire da questa ottica emergenziale, che come abbiamo visto non fa altro che favorire l'aumento delle auto in circolazione e quindi l'inquinamento, il Comune di Milano ha lanciato uno strumento programmatico chiamato Piano Aria Clima, che prevede di ridurre le emissioni di CO2 del 45% al 2030 e diventare una città carbon neutral al 2050. Le misure vanno dall'efficientamento energetico degli edifici, alla raccolta differenziata, alla sostituzione dell'attuale parco mezzi pubblici con veicoli elettrici. Ma per il momento è solo un piano, nemmeno troppo a breve termine. Ed è difficile capire se si tratti dell'ennesimo esempio di ecologismo di facciata o se il comune intende promuovere un serio cambio di rotta. Il discorso ecologico urbano è un fenomeno complesso, che coinvolge una vasta rete di attori, eventi, tecnologie che si influenzano tra di loro. Ma la propaganda comunicativa prova ad esaltarne spesso solo una piccola parte ed automaticamente a nasconderne un'altra o considerarla sconnessa come se non facesse parte dello stesso fenomeno. Da un lato si parla agli abitanti e alle periferie, ma in realtà ci si rivolge spesso a turisti e investitori globali. Dall'altro il sindaco Sala dichiara l'emergenza climatica, ma dall'altro viene approvato un piano di governo del territorio che consuma migliaia di metri quadri di suolo. Da un lato si parla di spazio pubblico, strade aperte, ma dall'altro si svendono delle enormi aree pubbliche come gli scali ferroviari. Da un lato c'è la campagna di Forestami e dall'altro l'investimento sui giochi olimpici invernali che distruggono interi ecosistemi e investono su autostrade e TAV. Se mettiamo tutto su una bilancia ci rendiamo conto che l'approccio antropocentrico ed estrattivista sia ancora predominante e come il peso della rivoluzione verde sia di fatto nullo. Solo nel dicembre del 2020 il Comune di Milano si è dotato di uno strumento programmatico chiamato Piano Aria Clima. Però sono stati pianificati interventi significativi solo entro il 2030, ovvero altri 10 anni per allinearsi con gli obiettivi dell'Unione Europea, che però risultano essere già oggi anacronistici, data la velocità dei cambiamenti climatici, e infatti le guide dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono già da anni molto più restrittive. Pensiamo che un recente studio quantifica in circa 1500 morti che si potrebbero evitare a Milano ogni anno se ci allineassimo con i parametri dell'OMS riguardo l'inquinamento atmosferico. Un allineamento che però è previsto nel piano aria clima solo per il 2050, decisamente troppo tardi. Si può risolvere il problema dell'inquinamento delle nostre città senza considerare la complessità ecologica e sociale del sistema in cui viviamo e il poco tempo che ancora abbiamo a disposizione. Non si può puntare a un modello estrattivista che specula sul territorio, che dà interi pezzi pubblici della città in pasto alla cementificazione e allo stesso tempo dipingersi come paladini ecologici. Dei due modelli, o uno o l'altro. Siamo all'ingresso dello Scalo Farini. Lo Scalo Farini insieme a Porta Romana, Greco, Lambrate, San Cristoforo, Porta Genova, Rogoredo sono al centro di quella che sarà la più grande trasformazione della città dei prossimi anni. Questa città non ci piace, questa città della nocività, del cemento, del consumo di suolo è il terreno ideale, perché poi ci trovi ogni virus, ogni malattia, ogni epidemia, ci trovi più esposti, con polmoni danneggiati dalle schifezze che respiriamo, senza aree verdi e senza boschi a compensare le nocività dell'aria di questa città. Bravi! Lo scorso 13 dicembre, come collettivo Off Topic, insieme al collettivo metropolitano Ecologia Politica e ai comitati territoriali Bresso Ecoattiva Sesto Male, oltre che assieme a molti singoli abitanti dell'Interland Nord, abbiamo organizzato una Critical Mass che, partendo proprio dalle vasche di laminazione in via di realizzazione nell'area del Parco Nord adiacente a Bresso, ha incontrato poi le operatrici sanitarie della campagna Io Curo all'ospedale Niguarda ed è passata dall'ex scalo ferroviario di Farini per poi concludersi fino a sotto il comune di Milano a Palazzo Marino. Per la prima volta dopo mesi siamo tornati sulle strade per denunciare la devastazione dei territori, la mala gestione della sanità, la privatizzazione della città pubblica e l'avvelenamento dei nostri polmoni. Siccome dopo quasi due mesi l'emergenza e soprattutto le sue cause strutturali e di lungo periodo non sono passate ma anzi si sono aggravate, per la prossima domenica 7 febbraio abbiamo deciso di saltare di nuovo in sella e incontrare le vertenze di difesa territoriale aperte nei quartieri di Milano Sud. Come la lotta delle operatrici e degli operatori sanitari degli ospedali San Carlo e San Paolo. Passeremo poi dai comitati che stanno difendendo l'area del Ticinello al Parco Agricolo Sud, da un nuovo progetto di greenwashing che prevede la trasformazione dei circa 90 ettari dell'area, attualmente in parte a uso agricolo e in parte bosco rinaturalizzato, in una sorta di finto giardino da città vetrina che tanto piace all'assessore Maran. A pochi metri dal Ticinello, poi, è in corso da tre anni una lotta del quartiere contro la multinazionale del petrolio Kuwait, che, grazie ai permessi accordati dal comune, voleva installare una nuova pompa di benzina esattamente sopra a diversi pozzi d'acqua potabile. Infine, il novembre scorso la Giunta Sala ha confermato, come sappiamo, l'assegnazione dell'ex scalo di Porta Romana a un nuovo progetto di consumo di suolo per impianti utili ai grandi eventi delle Olimpiadi invernali del 2026. E anche questo, dal nostro punto di vista, resta un punto centrale da denunciare su cui invertire la rotta delle politiche urbane e territoriali di Milano dei prossimi anni. Se la politica infatti è anche difesa di interessi materiali, allora quelli di Regione Lombardia e del Comune di Milano vanno evidentemente contro la cura della popolazione e dei territori. Toccheremo ciascuno di questi punti per incontrare i comitati di lotta e pretendere giustizia sanitaria e climatica ora. Ci vediamo alle ore 14 domenica 7 febbraio nello spazio antistante l'ospedale San Paolo. Thank you.